Pablo Picasso, raccontato da Matteo Caccia. L'Andalusia è la regione più calda, più passionale della Spagna. Alcuni dicono che è la regione più spagnola della Spagna. Lì nascono praticamente tutte le tradizioni che sono più sentite dagli spagnoli. Il flamenco, la corrida, le tapas. A sud dell'Andalusia, proprio sul mar Mediterraneo, c'è Malaga. Malaga ha 540.000 abitanti, è una cittadina di medie dimensioni. A Malaga, il 25 ottobre del 1881, nasce Pablo Picasso. Nasce in una casa che è situata in una piazza, si chiama Piazza de la Merced. Oggi quella casa è la sede della fondazione di Picasso. La sua famiglia è una famiglia piccolo borghese e vive in condizioni modeste. Il padre però è un insegnante, insegna disegno, lo insegna alla scuola di belle arti della città e questo in qualche modo ha un influsso decisivo sulla formazione di Picasso. Picasso, come ha ricordato poi in seguito, non avrebbe potuto partecipare a un concorso di disegni per bambini, lui dice, in quanto già nella sua infanzia aveva nozioni tecniche di un adulto, imparate sì dal padre, ma dovute anche all'innato dono prodigioso che lo rese poi l'artista che è. Dopo Malaga si muove, cambia città, è ancora un bambino e va a vivere a La Coruña. Pablo Picasso, capolavori dal Museo Nazionale Picasso di Parigi, dal 20 settembre al Palazzo Reale di Milano. Info radio24.it.